Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Alla fine di marzo, l'ultima domenica, 26, è in programma un'importante giornata di formazione per i responsabili dei centri di ascolto vicariali e per tutti i volontari. È un appuntamento annuale che si svolge all'Istituto Don Bosco, via San Camillo a Padova, per tutta la giornata dalle 9 alle 17. Ne parliamo con la responsabile animazione e formazione di Caritas Padova, Daniela Crivellaro. Daniela, allora, partiamo dal titolo. Piccoli passi possibili, di cosa parliamo? Buongiorno intanto, sì, piccoli passi possibili è il titolo che abbiamo dato quest'anno a questo appuntamento annuale ed è un passaggio di un percorso iniziato appunto 3 anni fa. Parliamo, diciamo, di accompagnamento, quindi di incontro con l'altro e di relazione d'aiuto. Siamo partiti da affrontare i temi dell'incontro, dell'altro e dell'ascolto, e quest'anno vorremmo affrontare il tema di che cosa si può progettare insieme, quali sono appunto i passi che possiamo fare insieme tra me, volontario, persona che si mette a disposizione dell'altro, e tu che vieni a incontrarci e a chiederci una mano. Quindi l'idea è proprio di stare sul concreto di quello che si può costruire con la persona in un progetto di accompagnamento. Prima di raccontare come si svolgerà la giornata, diciamo come ci si arriva a questa giornata, perché nelle prossime settimane bisogna arrivare preparati a questo appuntamento. Sì, dici bene, infatti, che diciamo la giornata è un appuntamento, ma è l'appuntamento di un cammino. Noi ogni anno abbiamo cercato di aggiungere tasselli che preparassero questa giornata. Nella giornata dell'anno scorso era emersa la necessità di poter stare di più anche come volontari, di poter condividere di più o avere degli spazi in cui ci diciamo anche come stiamo noi, quindi non solo proiettati sul fare, sull'altro e sul bisogno, ma anche sul chi sono io e cosa ho da offrire, cosa metto in gioco, come mi coinvolgo. Proprio per questo quest'anno, in maniera molto semplice, la preparazione a questa giornata è stata quella di chiedere ai volontari che sono disponibili per i vari turni di ascolto nei vicariati di prepararsi al turno di ascolto, dandosi uno spazio di silenzio prima dell'incontro con le persone, in cui leggere il Vangelo del giorno insieme, quindi una cosa proprio molto semplice, e chiedersi come sono arrivato qui oggi, come sto oggi, quindi rispondere proprio in maniera molto semplice e condividerselo, in maniera che ci sia sia un ascolto di se stessi e anche dei compagni con i quali quel giorno farò ascolto. Poi ci sarà il normale incontro con le persone, secondo l'organizzazione che c'è in ogni centro di ascolto, al termine della giornata, prima di ritornare a casa, ancora un momento proprio di silenzio in cui mi chiedo come torno a casa oggi, cosa mi porto a casa. È un modo per stare in ascolto di se stessi e delle persone appunto che svolgono con me il servizio, quindi non essere sempre proiettati sul fare, sul bisogno, ma cominciare a dirci anche noi come persone come stiamo in questa realtà. Ecco, in modo da poi poter svolgere meglio possibile questo servizio. E domenica 26, tramite il sito caritaspadova.it c'è l'apposito form, come si dice, per l'iscrizione, quindi una ventina di giorni, magari non aspettate proprio l'ultimo per iscrivervi, perché questo per chi organizza è importante. C'è anche un video che i volontari responsabili hanno già visto e condiviso, ma che potete raggiungere sempre tramite caritaspadova.it. È importante, Daniele, l'appuntamento diocesano, perché ci si scambia e ci si mescola come territori, perché i territori sono molto diversi fra di loro, le esperienze, le dimensioni appunto anche delle realtà, quindi sarà importante il 26 lo scambio di esperienze. Sì, diciamo che forse uno dei fiori all'occhiello, passatemi il termine, di questa giornata, una cosa che è molto apprezzata, che stiamo riproponendo, è proprio quella dei gruppi di condivisione. Quindi mettiamo a fuoco il tema, ci sarà sicuramente un approfondimento con l'aiuto del professor Gui, che ci ha seguito già all'inizio 3 anni fa e continua a supervisionare tutto il percorso e a essere presente in queste giornate. Però poi, una volta lanciato l'approfondimento, argomento, messo a fuoco il tema e le provocazioni, tutti i partecipanti che vengono da 30 vicariati diversi dove ci sono i centri ascolto più una parte dei volontari dei nostri servizi diocesani vengono mischiati in gruppi di lavoro di circa una quindicina di persone e continuano a confrontarsi e condividere sul tema o a fare comunque un'esperienza di laboratorio con l'ausilio poi di facilitatori che coinvolgiamo ad hoc per il lavoro di gruppo. E questa cosa è molto apprezzata dai volontari perché c'è anche il confronto con l'altro, con gli altri vicariati, quindi pur essendo della stessa diocesi è bello trovare i tratti comuni che ci condividono come esseri umani, è bello vedere anche le differenze o le particolarità o le fantasie dei diversi territori, quindi diventa ogni volta un'occasione di arricchimento già solo per l'incontro che si crea tra le persone. Torno sul titolo, così chiudiamo il cerchio, i piccoli passi possibili, perché colgo da questo un po' il rischio, no? Di voler fare sempre troppo, c'è questo rischio. È un rischio altissimo, noi la chiamiamo un po' la sindrome dell'onnipotenza, cioè di trovarsi magari a rivestire un ruolo dove ti chiedono sempre una mano e vieni mosso da una spinta anche buona, anche umana, di voler rispondere sempre il più possibile il tutto a tutti. Siccome questo però non è umano, questo piccoli passi possibili è dire un ridimensioniamoci, cioè stiamo a fianco dell'altro, aiutiamo più che possiamo, ma anche nel rispetto di chi siamo noi e nella possibilità di mettere in gioco le risorse che oggettivamente e realmente ci sono. Poi il resto lo fa anche la fantasia della vita, quindi noi ci mettiamo in gioco però in maniera realistica, altrimenti rischiamo di distruggere noi per voler aiutare l'altro. Domenica 26 marzo dalle 9 alle 17, Istituto Don Bosco in via San Camillo a Padova, l'incontro di formazione annuale per i responsabili e i volontari dei centri di ascolto vicariali. Iscrizioni aperte, caritaspadova.it. Grazie Daniela, buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.